Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, oggi in versione più ridotta, come sempre avviene nei periodi festivi, e terminerà il programma alle 18. Ci occuperemo chiaramente di quanto vi hanno già ricordato i nostri GR e quindi dello stallo in qualche modo che si è creato nel governo Italia Viva e i timori di una rottura che non dovrebbe avvenire, perché sarebbe oggettivamente non capita a livello anche europeo, mentre si continua a trattare a livello europeo. C'è ancora il tema del MES, non tanto del voto sulla riforma del MES normale, quanto sull'utilizzo del MES pandemico, ma cerchiamo di capire anche perché si sia creato questo stallo e cosa potrebbe portare. È chiaro che non c'è solo il MES, c'è anche la struttura del recovery plan, cioè la struttura, si chiama in gergo governance, l'abbiamo spiegato anche ieri, di come chi dovrebbe gestire il recovery. Ci sono molte perplessità sulla proposta di Conte piramidale e il rischio che vada a confliggere o quantomeno a sovrapporsi all'attività dei vari ministeri, per cui su questo si sta cercando ancora la quadra del cerchio, diciamo così. Parleremo anche, daremo l'aggiornamento sul il cashback, perché solo questa mattina vi sono state 400.000 nuove iscrizioni tramite l'app Io, senza contare le iscrizioni che provengono da altri canali del settore privato. Sappiamo che alcuni infatti danno anche la possibilità di accedere senza dovessi iscrivere, la comunicazione, la nota stampa di ieri di Nexi, se non ricordo male. Il numero totale dei download dell'app Io ha superato i 7 milioni, di cui 200.000 solo nelle prime ore di oggi. E ancora ne parleremo, perché ci sono anche altre iniziative. Parleremo di un'operazione di fusione, non se ne vedono tante in questo periodo, ma la cosa importante di questa operazione è che è Italia su Italia, e mi riferisco a Moncler, che ha acquistato la Modenese Sportswear Company, è la società che detiene il marchio Stone Island. Il valore dell'operazione è importante, 1 miliardo e 150 milioni di euro, pari al 100% del capitale. Avremo ospite Remo Ruffini, amministratore delegato della Moncler, per capire se questo potrebbe essere, come alcuni hanno scritto per esempio su Sole 24 Ore di oggi, un'ipotesi di un polo italiano del lusso e comunque della moda di fascia medio-alta, anche per contrastare tra virgolette l'egemonia francese dei grandi poli, e mi riferisco a Arnaud da un lato e Pinot dall'altro, quindi Louis Vuitton, Moët e KKR. Però l'operazione è importante anche perché avviene in un settore come quello della moda che, pur non essendo stato coinvolto come altri, penso alla ristorazione, al turismo, nelle chiusure, nei blocchi, ha subito danni uguali per le conseguenze indirette, per esempio di varie chiusure, l'assenza completa di eventi e di qualunque altra manifestazione, e anche, segnalano alcuni, l'utilizzo dello smart working. I numeri che abbiamo visto nel settore moda, abbigliamento, nei consumi sono numeri assolutamente purtroppo simili a quelli che si sono visti in settori obbligati alla chiusura, diciamo così. E ne parleremo. Poi appunto il tema del governo, del recovery plan, e infine anche la Brexit, perché se Boris Johnson ha detto che un accordo con l'Unione Europea sembra molto molto difficile, in realtà il vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic, insieme al cancelliere inglese Michael Gove, ha annunciato un'intesa di principio su tutte le questioni dell'accordo, e cercheremo di capire appunto se questo poi porti a sbloccare una situazione di cui insomma l'Europa ha bisogno di tutto tranne che di un casino creato dalla Brexit, anche perché la Brexit poi rischia di avere, per esempio la Coldiretti ha stimato che senza accordo sono a rischio 3 miliardi e 400 milioni di esportazioni agroalimentari del Made in Italy in Gran Bretagna, e la Gran Bretagna è, per le esportazioni agroalimentari italiane, al quarto posto dopo Germania, Francia e Stati Uniti a livello proprio mondiale per cibo e bevande. E quindi ci sono anche preoccupazioni sulla tutela giuridica dei prodotti. Sappiamo che ci abbiamo messo, abbiamo fatto una lunga battaglia come Italia per la tutela giuridica dei prodotti a partire dalla loro indicazione geografica di qualità, la DOP, la IGP, che rappresentano circa il 30% dell'export agroalimentare in Gran Bretagna. Ma faremo il punto appunto su degli accordi che sembrano essersi sbloccati. Per quello che riguarda i mercati finanziari, oggi la giornata è abbastanza piatta, meno 0,2 Milano, meno 0,1 Parigi, più 0,1 Francoforte, Londra invariata, Dow Jones più 0,15%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, andiamo con le altre notizie in breve. Oggi chiaramente non c'è moltissimo, però la Food and Drug Administration ha appunto affermato in un rapporto che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto efficace e sicuro. È già iniziata la prima somministrazione, le prime somministrazioni oggi in Gran Bretagna. Per quello che riguarda l'andamento del PIL europeo, ma ormai è quasi vecchio perché è il terzo trimestre, scusatemi, c'era stato un grosso aumento del 12,5% nella zona euro, che è stato l'aumento più grosso da quando misuriamo le serie storiche, dal 1995, con Francia più 18,7%, Spagna più 16,7%, Italia più 16% rispetto al trimestre precedente. E anche l'occupazione nel terzo trimestre era cresciuta dell'1%. Dico che è vecchio perché sappiamo che poi, ahimè, il quarto trimestre sarà fortemente influenzato dalle nuove chiusure in Francia, in Spagna, in Italia, in Germania. Per cui, insomma, però a dimostrazione che quando erano state allentate, se non sospese, le misure, diciamo, di contenimento del virus, l'economia nel terzo trimestre aveva fatto un recupero molto molto importante, ripeto, a livello congiunturale il più forte da quando misuriamo le serie storiche, nel 1995. È ovvio che si veniva da un crollo diciamo mai visto prima, però insomma è importante vedere la capacità di reazione e speriamo che appena la situazione tornerà a essere più tranquilla nell'area euro, in Europa, speriamo di vedere un altro trimestre con i numeri del terzo trimestre. Per quello che riguarda invece il recovery plan, oggi da Berlino arriva un invito, insomma a luglio eravamo tutti d'accordo su un sostanzioso piano di recovery, è irresponsabile ritardarlo, lo si deve sbloccare. E comunque il ministro degli affari europei tedesco, il tedesco Michael Roth, ha detto: noi lavoreremo fino al 31 dicembre per una soluzione a 27, però il presidente del gruppo del PPE dei Popolari Europei al Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha detto altrimenti c'è l'opzione B e il piano si fa a 25 senza Polonia e Ungheria. C'è stato anche un appello degli ex presidenti polacchi contro il veto, hanno scritto Lech Walesa, Aleksander Kwaniewski e Komorowski, tre ex presidenti polacchi. Non esiste secondo loro una versione polacca dello Stato di diritto diversa da quella europea, e che è un appello a fare presto sul recovery plan. Lo hanno fatto anche le Confindustrie di Germania, la BDI, MEDEF Francia, Confindustria Italia e poi la SEO spagnola e la Confindustria polacca, e hanno inviato una lettera ai presidenti delle tre principali istituzioni europee dicendo: l'Europa ha urgentemente bisogno di un piano per la ripresa e la crescita, gli strumenti chiave del recovery plan europeo e del appunto New Generation EU sono oggi più importanti che mai e devono diventare operativi senza ulteriori ritardi. Dunque, qualcuno mi dice: guardi che oggi c'è la dimostrazione che i soldi spesi a Venezia per il MOSE sono stati inutili. No, allora i soldi spesi per il MOSE sono stati troppi, perché come hanno dimostrato le inchieste della magistratura ci sono stati ampi fenomeni di corruzione. Detto questo, il MOSE, guardate che si è sollevato anche qualche giorno fa di notte, da quello che stiamo capendo il problema è stata la previsione, cioè non è che il MOSE basti premere un pulsante per alzare paratie, la previsione era di una marea molto più bassa, di un'acqua molto più bassa, e quindi non si sono attivati le procedure che richiedono un po' di tempo per poi portare l'innalzamento delle paratie. È il risultato però che adesso Venezia è sott'acqua, perché c'è stata una sottostima rispetto alle previsioni meteorologiche. Stiamo cercando di capire anche se per via del vento, ma insomma c'è stata una sottostima di quello che sarebbe stato il livello della marea, e conseguentemente non si sono attivate le procedure. Ripeto, non basta premere un pulsante. Comunque, per quello che riguarda invece la politica, ne parleremo fra un attimo. Vorrei parlare del cashback ancora per un secondo, perché ci sono ancora rallentamenti. Chi ha già avviato comunque i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del cashback sull'app Io da oggi può iniziare a acquistare accumulando le transazioni per ottenere il rimborso di Natale, quello che vale fino a 150 euro per un massimo di 1500 euro di spesa fatta appunto con non in contanti. Sono impressionanti i numeri degli scaricamenti, dei downloads, perché hanno superato nella app Io i 7 milioni, di cui 400.000 solo nella mattinata, e sono raddoppiate rispetto a ieri le richieste di caricamento di carte all'interno della sezione del portafoglio, con picchi di oltre 12.000 operazioni al secondo. E oggi il circuito Pago Bancomat, o meglio l'ha annunciato venerdì, oggi l'ha ribadito, ha annunciato che verranno azzerate le commissioni interbancarie per 2 anni sulle transazioni fino a un importo di 5 euro. Come ha spiegato l'amministratore delegato di Bancomat, Alessandro Zollo, oggi ospite a Due di Denari con Mauro Meazza e Deborah Rosciani. Proprio per rafforzare questo piano cashless del governo, essendo il circuito più popolare, più diffuso, con 1.600.000 operazioni Pago Bancomat, abbiamo deciso con le banche, nostre azioniste, di azzerare le commissioni di circuito per le transazioni fino a 5 euro. Lo faremo per la durata del periodo del cashback, poi valuteremo se farlo e se estenderlo o meno, ma per tutti questi 2 anni, per quelle transazioni che sono quelle, diciamo, a maggior diffusione, a maggior presenza di contante, che sono quelle che però determinano poi il cambiamento delle abitudini, perché fanno riferimento al pagamento del giornale, del caffè, del latte, del pane, che normalmente vengono fatte in contanti. Quindi questa è una manovra che tende a dare forza ancora di più a questo piano cashless. Allora, molti ascoltatori mi stanno segnalando: ma come, sull'app Immuni ci abbiamo messo 6 mesi per fare i 6 milioni e adesso invece non c'è nessun problema di privacy per il cashback? Ho capito, io cosa ci posso fare? Evidentemente c'è stata una sensibilità più alta per ottenere i soldi indietro, questo vuol dire cashback, rispetto allo scaricamento dell'app Immuni. Anch'io ritengo che, insomma, questa sia la dimostrazione che molte delle obiezioni sull'app Immuni, sulla privacy, vengano meno quando ne hai un beneficio di questo genere. Quanto costerà questa operazione? Dunque, solo 24 ore ha stimato ieri 4 miliardi e mezzo circa di mancato, diciamo, introito per lo Stato, però bisognerà vedere, perché se questo farà emergere, come è nell'obiettivo del governo, anche un po' di economia sommersa. Sappiamo che purtroppo dietro i pagamenti in contanti si nasconde anche il nero, questa cifra potrebbe ridursi, nel senso che tu ridai appunto una cifra fino a 4 miliardi, ma magari hai un imponibile più alto complessivamente. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Parliamo una volta tanto, diciamo, di qualcosa che, insomma, non citiamo più spesso in questo periodo: è un'importante, appunto, operazione di acquisizione e quindi diffusione. sì, parliamo di acquisizioni. È un po' che non lo facciamo, anche perché chiaramente la cronaca è stata assorbita in gran parte dal tema Covid e dalle conseguenze economiche del tema Covid, però... come riportato da alcuni giornali, il gruppo Moncler, quotato in borsa, lo citiamo spesso, ha acquistato e ha acquisito la modenese Sportswear Company, che potrà non dire molto agli ascoltatori. In realtà detiene il marchio Stone Island, che è un marchio storico, insomma, dagli anni 80 in poi. E il gruppo Moncler, guidato da Remo Ruffini, ha messo sul piatto 1.150.000 milioni, pari al 100% del capitale di Stone Island, ed è la prima volta nel settore moda, abbigliamento, insomma, di alta gamma, che due aziende vanno ad aggregarsi. Si è giunti attraverso un accordo tra Moncler e Rivetex, che è riconducibile a Carlo Rivetti. Siamo in collegamento con Remo Ruffini, appunto, presidente e amministratore delegato di Moncler. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. La domanda è molto facile. In questo periodo in cui ci sono prospettive incerte, e soprattutto il settore moda, non perché colpito in maniera diretta spesso dalle chiusure, ma perché come conseguenza di l'assenza di eventi, l'assenza di qualunque vita sociale o scarsissima vita sociale, e la proliferazione dello smart working, il settore moda ha subito cali pesanti, pesantissimi, anche nel primo e nella seconda ondata. Come mai un'acquisizione in questo periodo, Ruffini? Ma diciamo che la situazione è un po' quello che sta dicendo lei, un po', anche se noi siamo un'azienda, come tutte le aziende del lusso, un'azienda globale, dunque vendiamo in tutto il mondo, e ci sono state situazioni altalenanti. La Cina in un primo momento ha avuto un lockdown molto, molto forte, poi ha avuto una ripresa molto forte, un po' tutta l'Asia in qualche modo si è difesa, a differenza dell'Europa, che come sapete il nostro mercato è europeo, il mercato del lusso europeo è molto influente sui viaggiatori, turisti, dunque un 50% del mercato è sicuramente di visitatori che vengono in Italia, in Francia, per turismo, per lavoro. Dunque sicuramente quello è sparito ormai dal mese di marzo, dunque sicuramente un calo importante. In questo momento mi sono sentito però che era il momento giusto, io credo che in queste crisi ci sono anche delle opportunità. E poi di fatto quello che dico un po' tutti i giorni da quando mi ha fatto questa cosa è un po' la celebrazione della resilienza di un paese che nessuna crisi potrà mai fermare. Dunque credo che è un'operazione bella per l'Italia, una bella operazione bella per noi, per la famiglia Rivetti, ed è una operazione che credo fatta in un momento molto complicato, molto difficile, ma io credo che un imprenditore che abbia un po' di visione non deve aspettare la ripresa. Io credo che un imprenditore deve pensare, deve accelerare i processi, accelerare le idee che aveva prima, accelerare la propria strategia, perché prima o poi si riprenderà, non sarà dal 1 gennaio, non sarà dal 30 giugno, però io credo che già dalla seconda metà del prossimo anno ci sia E adesso vi arriveremo a questo. Volevo chiedere ancora una cosa sull'operazione in sé, perché insomma il valore è molto alto, 1.150.000.000 di euro, è un'operazione soprattutto nel settore moda che non si vedeva da tempo. Alcuni si sono spinti a dire questo potrebbe essere, visto che voi capitalizzate in borsa più o meno 11 miliardi, se non ricordo male, di euro, questo potrebbe essere un elemento, l'ha scritto anche Sole 24 Ore, una prova tecnica di un polo italiano nel settore lusso. Che cosa è successo in questi anni, ormai decenni? È successo che i grandi marchi italiani, l'abbiamo raccontato anche in diretta, sono andati sostanzialmente, non tutti ma molti, nei due grandi poli francesi, quindi Arnault e Pinot, e quindi i due grandi aggregatori di marchi, penso a Bottega Veneta, a Gucci, ma potrei andare avanti per un po', ahimè, anche Bulgari, insomma, ne abbiamo parlato molte volte. Lei condivide questa analisi? Cioè l'obiettivo potrebbe essere, vista la vostra capitalizzazione, di diventare il polo aggregante nel settore alto, non solo altissimo, ma anche medio-alto della moda italiana? Ma guardi, io credo che oggi bisogna avere una visione globale. Niente ho contro... contro Kering e LVMH, che sono stati aggregatori, hanno fatto di questa cosa una forte struttura, due grandissime aziende. Mm-hmm. LVMH è il più grande polo del lusso del mondo, dunque hanno fatto un lavoro eccezionale. Detto questo, è la prima operazione fatta da un'azienda italiana, di un'unione tra due famiglie italiane. Dunque, diciamo che io, quando abbiamo detto facciamo un titolo sulla press release di ieri mattina, il titolo è secondo me molto sintomatico, è oltre la moda, oltre il lusso, che secondo me questo è un punto importante. Noi vogliamo trovare un progetto unico, vogliamo fare un progetto unico, dunque l'aggregazione fino a stasera trova anche una cosa un po' già vista, un po' fatta da loro, ed è ormai un progetto che è sul mercato. Io credo che ci sia la possibilità di fare dei progetti interessanti. Oggi bisogna pensare ai giovani, bisogna pensare alle nuove generazioni, perché con tutti gli studi, tutte le ricerche che sono fatte, si dice che il consumatore che oggi ha meno di 25 anni, fra 3-4 anni sarà il 50% del mercato del lusso. Dunque è lì che sto lavorando, oggi credo che mi devo impegnare su questo nuovo progetto, poi vediamo, non voglio escludere niente. Detto questo, progetti per le nuove generazioni, sono molto interessato. Sulla tradizione del lusso lo trovo un pochettino più noioso per il mio punto di vista. Ecco, ancora due domande. La prima, voi avete valorizzato, come si dice in gergo, insomma, Stone Island, un multiplo di 16, quasi 17 volte l'EBITDA del 2020. Ora, Stone Island fatturava 240 milioni. Come mai una scommessa, insomma, in cui andate a valorizzare il marchio in questo modo? Ma guardi, diciamo che la valutazione è allineata alle ultime due transazioni che ci sono state nel nostro settore. Oggi il lusso non va più visto, secondo me, con i marchi capisaldi di questo mondo. Si è creato un nuovo posizionamento, che non è solo formato da Chanel, Hermès e questi marchi, un posizionamento tra il lusso e i nuovi marchi dei giovani, che sono, io dico sempre, un posizionamento tra Nike e Hermès. Oggi, se le vede, non solo atteggiamenti di Vuitton da uomo che ha preso un jockey americano per farlo diventare il suo direttore creativo, l'ultima collaborazione di Dior era un grande, lo è tutt'oggi, un grandissimo marchio del lusso, che ha fatto una collaborazione con Nike, dunque un prodotto più, lo chiamiamo streetwear, il turnaround di Gucci, che è stato praticamente basato sulla strategia di ricercare i giovani. Io credo che quello è il vero posizionamento oggi del nuovo lusso. Il nuovo lusso deve essere totalmente digitale. Detto questo, le ultime due transazioni, di cui la più grande, che può dir poco agli italiani, però Supreme, che è un grande marchio per i giovani, un grande marchio lusso, è stato venduto al gruppo WF in America per più o meno un moltiplicatore. E Golden Goose è passato di mano da due fondi da Carlyle, è andato a Permira più o meno 15-16 volte l'EBITDA. Dunque sono un po' i multipli di questo momento, che non rispecchiano la realtà di mercato, ma il mercato finanziario, come ben sapete, ha reagito a questa crisi in maniera molto diversa. Di fatto novembre è stato il mese con più grande crescita dal 1850, sembra inverosibile, ma è così, e i mercati finanziari oggi, specialmente nel mondo del lusso, compreso il nostro titolo, sono ai massimi storici. Mi interessa molto il ragionamento che fa lei sui giovani, vorrei concludere su questo. Modestamente, è una parte importante del libro che ho scritto, è come cambia anche la modalità, la neosobrietà delle nuove generazioni, che non vuol dire neopovertà, vuol dire neosobrietà, cioè il muoversi grazie alla rete esclusivamente laddove vedono valore aggiunto, e non, per usare un linguaggio degli anni 80-90, bisogni indotti e consumi ostentativi di status, ma grande attenzione al valore aggiunto, che viene resa possibile attraverso anche la rete. E mi interessa capire questo con lei, cioè, quando le dice puntiamo sui giovani, che tendenza vede in atto? Perché se non sono consumi ostentativi e quindi da bisogno indotti come negli anni 80 e 90, che consumi sono? Ma non è esattamente come dice lei, esattamente non è così. Oggi siamo passati dal possesso all'esperienza. Dunque le necessità del mercato, e oggi purtroppo o per fortuna devi parlare solo dei giovani, perché quello è il vero mercato anche nel mondo del lusso, dunque deve essere totalmente esperienziale. Esperienziale vuol dire che l'approccio, l'atteggiamento che c'è nel digitale oggi è fondamentale, l'atteggiamento che c'è sulla sostenibilità è fondamentale, e creare l'esperienza nel digitale e nel fisico non ci si può esimere, quello che noi chiamiamo in gergo omnicanalità, non è più come una volta. che si va a fare shopping in un negozio, e anche quello oggi però è più l'esperienza che uno trova, saper conquistare il tuo consumatore online, creare un'esperienza online, e poi indipendente dove c'è la transazione, indipendente dove c'è l'acquisto, questo diciamo è poco importante, ma è quella di creare la propria community. Se non riesci a creare una tua community, purtroppo vai poco lontano. Una volta la comunicazione era la comunicazione tradizionale, posso dire abbastanza facile, prendevi una bella modella, una buona attrice, facevi un bello servizio fotografico e la tua stagione era finita, compravi tante pagine sui giornali di lusso e il problema era risolto. Oggi non è più così, col digitale c'è un'interazione giornaliera, un'interazione personale, dunque l'approccio è veramente cambiatissimo, non è più quello degli anni 80, proprio dico, si passa da possesso a esperienza, dunque è veramente cambiato il mondo. Allora, grazie anche a Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler. Grazie, arrivederci a tutti. E adesso andiamo verso il meteo pubblicità, poi parliamo di Brexit e di l'accordo. Sembra che sia arrivato un accordo a livello di governo sul recovery plan. Sì, mi scrivono gli ascoltatori, ho scritto un libro, non è che faccio pubblicità, posso fare pubblicità durante la diretta, si chiama Terra Incognita, insomma, in internet è facile cercarlo, però basta, non porterò mai il libro in trasmissione, magari qualche volta vengo ospitato da altre trasmissioni per parlarne. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo sul meteo. Focus Economia. Allora andiamo prima sull'Italia, inverto l'ordine diciamo dei fattori, l'ordine dei blocchi, perché se ho ben visto sul recovery, allora chiariamo un po' cosa è successo oggi. C'è stato un nuovo stallo tra ieri e oggi nel governo sulla governance, su come verrà organizzata la catena di comando, chiamiamola così, così ci capiamo tutti, comando e responsabilità, per gestire i piani e i soldi, quindi anche del recovery. È saltato il Consiglio dei Ministri previsto per oggi pomeriggio, ieri il pre-consiglio era cominciato alle 20, durato fino alle 2 di notte, ma non ha fatto registrare passi in avanti, e soprattutto c'è Italia Viva che ha posto il veto sulla task force pensata dal Presidente del Consiglio. Tra i punti più contestati, i poteri in deroga di questa task force, che sarebbe guidata da 6 manager e formata da 90 tecnici. Considerati da Italia Viva, ma anche dal PD dei 5 Stelle, esorbitanti e non sottoposti ad alcuna verifica da parte dell'esecutivo. I 6 capi manager sarebbero i 6 capi missione sulle 6 aree di intervento, per cui digitalizzazione e innovazione nella pubblica amministrazione, che avrebbe una dote di 49 miliardi. La rivoluzione verde, transazione ecologica, la dote più importante, 74 miliardi, la seconda area. Poi la parte infrastrutturale per una mobilità sostenibile, alta velocità, intermodalità logistica e quant'altro, vale 28 miliardi, istruzione e ricerca vale 19 miliardi, e all'interno della parità anche di genere, delle politiche del lavoro, altri 17 miliardi, e poi 9 miliardi sulla sanità, però anche qua sono parti infrastrutturali della sanità, la ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, assistenza di prossimità e telemedicina. Gianni Trovati, allora sentiamo intanto Rain, è in collegamento con noi, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Ecco, sentiamo Renzi oggi, l'ha detto prima di questo accordo, se ci chiarirai tu se è un accordo, dire no a pieni poteri a Conte. Una struttura che pensa a moltiplicare le poltrone, ma non va a dare una mano ai disoccupati, ai negozi chiusi, alle persone che soffrono. Se le cose rimangono come sono, noi voteremo contro. Per noi un ideale vale più di una poltrona, perché insistere su una misura che sostituisce il governo con una task force, che sostituisce la seduta del Parlamento con una diretta Facebook e che addirittura pretende di sostituire i servizi segreti con una fondazione privata voluta dal Premier, significa una follia. Noi abbiamo mandato a casa Salvini per non dargli i pieni poteri, ma non è che i pieni poteri li diamo a Conte. Allora, Gianni Trovati, mi sembra che invece l'accordo si sia trovato, scusami il gioco di parole. Allora, l'accordo per ora si è trovato sulla risoluzione del MES, perché l'altro corno, diciamo, del problema che sta agitando la maggioranza è che domani si deve votare una risoluzione che dia via libera a Conte per andare al Consiglio europeo giovedì e venerdì e approvare, dare anche l'approvazione dell'Italia, quella di tutti gli altri paesi, c'è già, alla riforma del MES. L'accordo si è trovato con la solita costruzione linguistica in cui si apre un po' alle istanze, diciamo così, dei 5 Stelle più dubbiosi sul tema, però insomma il punto sostanziale è che domani, salvo sorprese, incidenti parlamentari eccetera, la maggioranza dovrebbe votare in maniera abbastanza compatta, si vedrà quanto, una risoluzione che dice a Conte: sì, puoi andare ad approvare la riforma, puoi andare a dire il tuo sì alla riforma del MES che è già stata approvata da tutti gli altri paesi europei. Mentre sulla governance del recovery ancora i pontieri, come si dice in questi casi, sono al lavoro, perché le obiezioni di Italia Viva sono sostanziali. Sì. L'accordo a questo punto potrebbe trovarsi in una formulazione che porta questa struttura non dentro, so di entrare in un terreno piuttosto indigesto per chi non ama le controversie della politica romana, comunque non dentro un emendamento alla manovra, ma dentro un decreto legge. Perché? Perché il decreto legge, poi ci sono 60 giorni di tempo per litigare, intanto passa la nottata e qualcosa succede. Però le obiezioni di Italia Viva, che in verità non sono solo di Italia Viva, ma sono anche di parte del PD non minoritaria, diciamo così, sono sostanziali, cioè chi deve tenere la briglia di sto recovery? Il piramidone di Conte, cioè una struttura che sostanzialmente fa capo alla Presidenza del Consiglio e che sul piano tecnico è estranea all'organico di vertice della pubblica amministrazione, dei ministeri, eccetera, oppure deve essere il governo con i suoi ministeri? Se l'obiezione rimane tale, naturalmente non c'è formulazione che tenga, però insomma i tempi aiuteranno a trovare una soluzione. Senti, tutti, so che è un mio vecchio cruccio, ma insomma la Francia, lo ridico ogni volta, ha semplicemente detto che il Ministero dell'Economia e Finanze, che è diretto dal ministro Bruno Le Maire, si chiamerà Ministero Economia e Finanze e Recovery. Cioè tutto fa è ovvio che poi c'è la presenza del Consiglio, ma insomma tutto viene accentrato dentro il Ministero Economia e Finanze. Perché non abbiamo fatto una scelta del genere? Cioè perché costruire una struttura che non dico che sia sbagliata di per sé, però il rischio forte di essere parallela ai ministeri, ai direttori e ai capi di dipartimento, ai capi di gabinetto, con il rischio, lo dico in maniera molto chiara, che poi sentendosi scavalcati vi possa essere anche una qualche forma di ostruzionismo, di resistenza da parte dei ministeri stessi, e con il rischio poi di bloccare tutto, perché non si è presa in considerazione una struttura modello francese? Ma allora, noi un inizio di struttura modello francese l'avevamo talmente presa in considerazione che l'abbiamo addirittura scritta nella legge di bilancio. Nella legge di bilancio c'è scritto che la ragioneria generale fa da, diciamo così, centro di coordinamento e monitoraggio, come è ovvio che sia, perché insomma troverei curioso che fosse il Ministero della Marina Mercantile, noi citiamo un ministero che non esiste, nessuno si offende, a fare questo lavoro. Sarà il Ministero dell'Economia con un dipartimento specifico, una struttura specifica all'interno della Ragioneria Generale dello Stato. Questo c'è scritto nella legge di bilancio che ora è all'esame della Camera dei Deputati. Naturalmente però gli equilibri da trovare all'interno del governo italiano sono evidentemente un po' più articolati e un po' più complicati rispetto a quelli che i francesi, per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare altri, hanno trovato al loro interno. Di conseguenza c'è da trovare un equilibrio che prima era fra due istanze, quella di Palazzo Chigi e quella del Ministero dell'Economia, per avere il ruolo di, chiamiamolo comando per capirci, sulla gestione dei piani. Ora invece le istanze sono almeno tre, perché ci sono anche ampi settori dei partiti di maggioranza, a partire da Tutta Italia Viva, che chiedono di avere una voce in capitolo anche loro, perché al momento la struttura ipotizzata dal piramidone di Conte è Conte con Gualtieri, che è il ministro dell'economia, e Patuanelli, che è il ministro dello sviluppo economico e che è anche dei 5 Stelle. Sì. Quindi naturalmente questo tiene fuori Italia Viva e l'EU. Quindi bisognerà trovare un equilibrio che sia il meno possibile, però un equilibrismo, perché l'equilibrismo naturalmente getterebbe incognite piuttosto elevate poi sulla possibilità di funzionamento di questa struttura. Comunque staremo a vedere, Gianni, ti toccherà essere ospite di nuovo, te lo dico. Intanto ti auguro. Come sempre. Buon 8 dicembre, adesso noi andiamo sul traffico, vediamo invece, anche qui un po' di incertezza sta montando, se si è sbloccata la trattativa sulla Brexit, perché era prima Johnson questa mattina aveva detto, Boris Johnson, siamo ancora in alto mare, poi ci sono arrivate le comunicazioni da parte dei due soggetti che fronte britannico e fronte Unione Europea stanno trattando, però ora stanno di nuovo frenando dicendo è una trattativa solo, diciamo, di cornice, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Leonardo Maisano, domanda semplicissima, visto che Boris Johnson aveva detto siamo ancora in alto mare, poi invece sono intervenuti i due che trattano, Maros Sefcovic, che è la parte, diciamo, europea, e poi il cancelliere inglese Michael Gove, che hanno annunciato un'intesa di principio. Domanda semplice, insomma, si va verso un'intesa poi non solo di principio o è ancora lunga la strada? No, la strada non può essere lunga perché ormai, o allunghiamo l'anno e nessuno penso voglia allungare sto cavolo di 2020, ecco. No, certamente. E quindi no, bisogna chiarire, questo accordo che hanno trovato è stata sostanzialmente la marcia indietro di Boris Johnson rispetto alla fuga in avanti di quest'estate, quando lui improvvisamente disse degli accordi internazionali già sottoscritti non mi interessa niente, l'Irlanda non avrà quelle condizioni che erano all'interno nei rapporti commerciali tra Irlanda e Regno Unito, non ci saranno quelle condizioni che facevano, come dire, da cornice all'accordo, all'accordo quadro, sì. E poi è quello che stanno negoziando adesso nel dettaglio. Ora, ha fatto marcia indietro su quello, cioè la Gran Bretagna riconosce quello che si era impegnata a fare, no? Sostanzialmente. Sì. Questo aiuta l'atmosfera, perché fu un atteggiamento, come dire, molto sprezzante, molto provocatorio quello di Londra nei confronti dell'Unione Europea, mandando, come dire, a pallino un accordo già siglato. Quindi chiaramente questo agevola l'atmosfera e crea un... Però tre problemi di fondo della trattativa, sui tre problemi di fondo della trattativa non è che ci sia luce. Allora Leonardo, hai 30 secondi per ricordare, hai un minuto anzi, un po' di più, per ricordarmi i tre problemi di fondo. Sono uno più formale che sostanziale, però politicamente molto molto delicato, la questione della pesca. Sì. Cioè la Gran Bretagna non vuole che le flotte dell'Unione Europea possano andare entro nelle sue acque territoriali a pescare come previsto adesso. Uno. Due, la Gran Bretagna chiede accesso privilegiato al mercato interno, ma chiede anche delle deroghe sugli aiuti di Stato alle sue aziende. Quindi di fatto, perlomeno questo dal punto di vista dell'Unione Europea, andando a come dire, creare un livello di concorrenza non leale. Mm-hmm. Terzo punto. Qual è l'Irlanda. L'elemento sul quale chi dovrà dirimere eventuali contenziosi fra le parti, visto che la Gran Bretagna non riconosce la Corte Europea di Giustizia non la vuole riconoscere, allora chi dirimerà eventuali contenziosi? Questi sono i tre punti. E non sono punti da poco. Grazie per la sintesi anche a Leonardo Maisano. È veramente tutto per questa puntata in edizione appunto festiva di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi nell'orario normale fino alle 18:30.